1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18 minuti, cari ascoltatori. Allora, leggiamo i giornali. Devo fare un pochino di ordine perché oggi sono un po' trafelato. Ecco qua, metto gli articoli di qui. Il mouse qua. Ok. L'acqua c'è. Tutto a posto, si fa per dire. La scaletta, eccola qua. Allora, oggi parleremo dalle 8:15 di un fatto di cronaca. È una storia che riguarda il carcere, un percorso di redenzione, la certezza della pena. Non voglio anticiparvi molto perché è una storia che ha dei protagonisti particolari che poi vi spiegherò, ma è una storia secondo me molto da ascoltare. Riguarda anche un libro, parleremo anche di un libro che si intitola Abolire il carcere. Certo, il titolo è provocatorio e già farà molto discutere. Ascoltatela però, la storia delle 8:15, che avrà protagoniste due donne. Ne parleremo più avanti. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola, come sempre. In questo mercoledì 20 maggio. Allora, il Sole 24 Ore apre sulle pensioni ancora. È quello che mi ha fatto sbottare su Twitter. Ma è chiaro che ho fatto una battuta. Mamma mia, appena uno, come dicevo prima, tocca la morte, non si può dire nulla. Vabbè, la rifarò allora la battuta tra poco, quando avremo Mauro Meazza. Intanto il titolo è questo: pensioni, è di 46 miliardi il conto del retributivo. Cioè, se i 14.000 pensioni fossero calcolate, se le super pensioni fossero calcolate col metodo non con cui sono andati in pensione gli attuali pensionati, ma col metodo nuovo, si risparmierebbero 46 miliardi l'anno. Da qui mi è venuta una battutaccia, ma vabbè, la dirò dopo. Renzi, ora pensioni più libere, il Corriere della Sera, questo è il titolo di prima pagina. Mentre la sfida della riforma delle pensioni è l'apertura della Stampa. Il Messaggero, i conti della pensione anticipata, questo è il titolo principale. Il Secolo XIX, Renzi, pensioni più flessibili. La battutaccia era questa: cari anziani, vi vogliamo tantissimo bene, ma schiattate presto, per favore, per i conti pubblici mettetevi. Ma era una battutaccia, mi hanno attaccato, mi stanno attaccando su Twitter, ma figurarsi se io voglio che gli anziani... Vabbè, attacco ai segreti di Stato, questo è il titolo invece del Giornale. In prima pagina, guerra informatica, l'Italia è bersaglio di hacker, sono state rubate conversazioni al Ministero della Difesa. Questo è il titolo che solo il Giornale ha in esclusiva. Libero invece continua sulle plusvalenze dei papponi. 1 milione per un'ora alla Camera. L'incredibile caso dei radicali Boneschi e Craveri. Si sono dimessi subito, hanno versato 60.000 euro di contributi, hanno incassato oltre 500.000 euro a testa. Il Fatto Quotidiano invece: calcio, è tutto truccato. E così anche Repubblica: il calcio truccato, patto segreto sulla TV, partite vendute. È l'ultimo marciume che viene fuori dal calcio, soprattutto minore in questo caso. Allora, però voglio partire da che cosa? Ricordate gli scontri del 1° maggio con i violenti che hanno assaltato i poliziotti? È stato arrestato, con qualche giorno di ritardo, ma identificato, il 28enne che è immortalato in una foto che picchia con un bastone il vicequestore di Milano a terra. Si tratta di Marco Ventura. È stato arrestato dalla Digos di Milano per l'aggressione al vicequestore Antonio D'Urso durante gli scontri. Preso il No Expo della foto simbolo. L'avete sicuramente presente quella foto. C'è un parchetto, un po' di erba, un vicequestore che scivola a terra, viene seguito da alcune persone mascherate. Uno si avventa con un bastone e viene salvato dal casco, perché il Jeep dice voleva fare male. Questa persona, che è già conosciuta per occupazioni di case, perché è considerato un anarchico, 28 anni, fa parte di gruppi che hanno preparato per 6 mesi, secondo il capo della Digos milanese, questo evento per colpire, infatti viene definito di indole violenta. È stato preso, bastonate alla gente, arrestato al No Expo. Anche pagina 11 del Giornale dedica una pagina a questo, su questo tema che torna prepotentemente alla ribalta. Ma voglio concentrarmi, e lo faccio sempre pensando a tutti coloro che stanno prendendo un treno, magari delle Ferrovie Nord, quindi della zona della regione Lombardia più o meno, che stanno viaggiando magari un pochino scomodi, un pochino pigiati, un pochino in ritardo, magari un pochino in difficoltà, o magari in maniera precisa, puntuale, perfetta, perché tutti i giorni il treno vi porta sui posti di lavoro. Insomma, sono uscite nuove indiscrezioni sulle spese pazze, questa è l'accusa del PM, del presidente della Ferrovie Nord Achille e dei suoi familiari. Guardate solo qualche titolo, i voraci figli di Achille, quasi mitologico come titolo, i voraci figli di Achille. Tutto a spese di Ferrovie Nord, titolo di pagina 15 della Stampa. Auto, multe, scommesse sportive, a pagare era il papà presidente. Nelle carte dell'inchiesta spuntano addirittura anche dei quadri che secondo due intercettati sarebbero finiti a casa dell'ex presidente della regione Lombardia Formigoni. Formigoni che dice: nella mia abitazione non c'è nulla e querelo chiunque dica il contrario. Dai film porno alle notti al Twiga, locale di Brigatore. La bella vita con carte aziendali del presidente di Ferrovie Nord, Emilio Randacio, pagina 19 di Repubblica. Ci sono tutti i tipi di sperpero nell'ordinanza con la quale gli uomini dei carabinieri in via Moscova hanno notificato l'interdizione dai pubblici uffici per 6 mesi al presidente Achille. Ci sono anche le intercettazioni dello stesso Achille che parla con il figlio e gli dice a un certo punto: basta, l'ennesima multa, se tu fai il conto sono 17 anni di multe, le multe in totale sono 125.000 euro. Non andare in giro con quella macchina, se ci beccano facciamo proprio il botto, capisci? Questo dice il padre al figlio. E si parla anche di film su Sky, tra cui anche film pornografici, vabbè, un po' di sputtanamento c'è sempre in questi casi. Cene in Versilia, tavoli VIP con le carte di Ferrovie Nord. Si parla anche di 900 euro per entrare al Twig. E si parla sul Fatto Quotidiano con Marco Lillo di che cosa? Pranzi luculliani con conti astronomici fatti rimborsare addirittura due volte, perché prima pagava con la carta di credito aziendale e poi presentava la ricevuta del ristorante alla cassa della presidenza e si faceva rimborsare. Quindi un doppio rimborso, perché pagava già con la carta aziendale ma presentava la fattura a dire: ho pagato questo con la mia carta, questa è l'accusa, quindi mi dovete rimborsare. Spese telefoniche per cifre astronomiche di 124.000 euro e 296 euro, 124.000 e 296 euro in 5 anni, raggiunta anche questa grazie a una duplicazione. Aveva attribuito in uso alla moglie Patrizia e al figlio Marco 2 schede aziendali, ma era intervenuto su una terza SIM facendo addebitare le telefonate effettuate all'altro figlio Filippo sull'utenza aziendale. E poi appunto le spese a Forte dei Marmi, i film su Sky, tutto così. Massimo Gramellini oggi, il buongiorno sulla Stampa, figli di Ferrovie Nord, questo è il titolo. 120.000 euro di multe, anche a prenderne una al giorno, quanti anni di coscienzioso menefreghismo ci vogliono per metterla insieme? Quale sorgente inesauribile di punti zampillava dalla patente di chi ha continuato sbadato imperterrito a collezionare contravvenzioni? Qui si narrano le gesta dei figli, non neanche più giovanissimi, del presidente delle Ferrovie Nord di Milano, a cui il babbo aveva dato in uso 2 auto blu decisamente indisciplinate. Uno dei tanti agi che il satrapo dei pendolari divideva coi suoi cari, dai telefoni all'abbigliamento, dalle pay TV, le scommesse sportive. È possibile che nessuno si fosse accorto di niente? Cercheranno di farcelo credere, ma sarà ben esistito un ragioniere che saldava gli estratti conto, un revisore addetto ai controlli, un amministratore che per mestiere avrebbe dovuto dare uno sguardo ai bilanci e invece soffriva di temporanea cecità. Esistevano ovviamente, però nessuno ha parlato, perché nessuno si è stupito né scandalizzato, perché a tutti appare scontato che in questa sorta di neofeudalesimo sopra gli accampamenti dei miserabili si ergano i castelli dei signorotti a cui tutto è concesso e dovuto, compresa la libertà di usare le cose degli altri come proprie e trasformare il potere da responsabilità a privilegio. 120.000 euro. Qualcuno mi spieghi con quale animo stamattina migliaia di italiani andranno a pagare la loro piccola multa dolorosa e solitaria, consapevoli che in Italia fare il proprio dovere non si passa per onesti, ma per falliti. Comunque trovate vari articoli, ma ne trovate anche uno che è quello che ci fa tenere le mani strettissime sul volante. Come sapete, io sono contrarissimo sempre e comunque alla pena di morte. Sempre e comunque alla pena di morte, dico no. Ed eccolo qui, in Arabia Saudita. È arrivato il nuovo re Salman. Da quando è arrivato si cercano i boia, troppe condanne a morte. Pagina 13 della Stampa, Maurizio Molinari. Da quando re Salman è divenuto appunto il nuovo regnante in Arabia Saudita, le condanne a morte si sono moltiplicate fino al punto da mettere a nudo la carenza di boia. Ora il governo è obbligato a mettere inserzioni pubblicitarie per reclutare sciabolatori qualificati, cioè quelli che devono decollare le persone, tagliare la testa in pubblica piazza, e devono fare pratica amputando arti ai condannati a pene minori. Ma che schifo è! Ma che schifo è! Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, etichetta Rossoneri, il conduttore che crea un'atmosfera. Oh, e speriamo sia un'atmosfera piacevole. Eccoci qua, cari ascoltatori. Allora, vogliamo parlare di calcio, ma non tanto per il calcio, perché il calcio è nelle prime pagine dei giornali oggi. Ci sono giornali, il Corriere, che dedica le prime 4, 5, 6 pagine, Repubblica, questa, l'ennesimo scandalo che sarebbe stato scovato dalla procura di Catanzaro. In questo caso soprattutto riguarda il calcio minore, la vicenda è sempre la stessa: scommesse sportive anche dell'Ndrangheta, e quindi partite truccate. Questo almeno è quello che dice la procura di Catanzaro. L'inchiesta è Dirty Soccer, cioè calcio sporco. Le partite truccate dell'Ndrangheta, soldi dalla Serbia, giocate milionarie. Un dirigente al telefono dice anche Lotito, che è il presidente della Lazio, ricatta Tavecchio, cioè il presidente della federazione. Certo, questo dà spunto a Fabrizio Roncone di chiamare il presidente della Lazio, Lotito, no? Io non so niente, Lotito è uno vulcanico, uno che reagisce sempre così. Non voglio sapere niente, non rilascio interviste. Che è successo? Ma guardi, ci sono inchieste di calcio scommesse, 30 squadre coinvolte, 50 arresti, 70 indagati. Incredibile, risponde Lotito. Certo che c'è anche però una telefonata che la riguarda, una telefonata, cioè, ma dicono appunto due intercettati che lei in pratica testuale, Macalli e Tavecchio sono due rincoglioniti in mano a Lotito che li ricatta. Ma basta, sbotta Lotito, basta, che deve fare Lotito? Sparire? Devo sparire, annientarmi, vaporizzarmi? Perché mi tirano sempre in mezzo a qualche schifezza? Perché lei non scriva niente, niente di niente? E poi Lotito è fatto così, racconta Fabrizio Roncone. A un certo punto dice: guardi, adesso lei, io ricatterei Macalli e Tavecchio, li chiami? Anzi no, guardi, li chiamo io. E Lotito è notorio perché maneggia tre telefoni contemporaneamente. Allora chiama Mario Macalli, presidente della Lega Pro. Mariuccio, non te mette a ridere. Allora, sull'altro telefono c'è uno del Corriere. Sai che dice? Dice che due sconosciuti intercettati sostengono che io ti ricatto, capito? Dimmi, io ti ricatto, ricatto te. Così, Lotito. Questa è l'intervista di Lotito che trovate a pagina 2 del Corriere della Sera. La verità è che la vicenda sarebbe ed è molto seria, perché ci sono appunto 50 arrestati, decine di pagine di intercettazioni, gol e minacce. L'idea è questa: giocatori pagati 500, 600, 700, 1000 euro al massimo al mese, come possono arrotondare per rimanere nel mondo dorato del calcio? Si vendono le partite sulle quali gente senza scrupoli scommettono cifre milionarie e poi si spartiscono una parte. Questo è l'impianto dell'accusa. Anche il Fatto Quotidiano dedica le prime 5, 6, 7 pagine su questo. Poi c'è un'altra inchiesta che non c'entra nulla con questa, ma che riguarda il mondo del calcio, e cioè l'antitrust che indaga sui diritti TV nel calcio. L'antitrust è entrata ieri negli uffici anche della Lega di Serie A, di Sky, di Mediaset Premium, di RT, di Infront Italia, che è la società che gestisce tutto, per controllare e acquisire i documenti relativi alla gara di 3 lotti di diritti sul calcio TV e a eventuali accordi successivi. Una notizia che certamente ha fatto scalpore. L'antitrust indaga su Sky e Mediaset per i diritti del calcio, questo è anche il titolo di Repubblica. Vi segnalo a proposito di questo un articolo interessante che trovate a pagina 2 e 3 di Repubblica, a firma Ettore Livini e Marco Mensurati, riguarda proprio la società Infront, il sistema Infront. L'ingresso della Guardia di Finanza nella sede di Infront Italia potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale nella storia del calcio italiano. Non è solo simbolico che a mandare i finanzieri a ispezionare Infront sia stata l'autorità garante per il mercato. Entrata in Lega Calcio nel 2008 su presentazione di Matarrese, proprio con incarico di gestire l'asta per i diritti TV, vale a dire l'unica fonte di approvvigionamento del sistema, questa società presieduta da Marco Bogarelli, ha lentamente divorato ogni cosa intorno a sé, finendo con l'occupare ogni minimo spazio occupabile, facendo piazza pulita in ogni forma di concorrenza. Dalla consulenza sulla cessione dei diritti TV, in fronte è passata al controllo delle squadre di calcio, direttamente. Controllo esercitato in un primo momento in modo indiretto, vale a dire attraverso acquisto a prezzo fuori mercato di diritti commerciali delle varie società, e poi in secondo tempo in maniera diretta con l'intervento finanziario in cordate create per l'acquisto di titoli sportivi di società in crisi, come nel caso del Bari, del Brescia, del Parma. E ogni società e ogni squadra sotto controllo, un presidente arruolato, il che vuol dire ogni presidente un voto in Lega Calcio, dove si decide tutto quello che succede e interessa a Infront. Questo sarebbe il meccanismo perverso spiegato da Repubblica e sulla quale anche l'antitrust vuole vederci chiaro. Tra l'altro, la questione TV e oggi in primo piano anche per Federico De Rosa e per il Corriere della Sera, perché un altro fronte è quello di cui si vocifera moltissimo, e cioè un'alleanza tra Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, quindi Mediaset, e Murdoch, Lachlan Murdoch, il figlio di Rupert Murdoch. L'idea è quella di mettere insieme Sky e Mediaset, si vocifera da tempo. Le ipotesi di accordo prevederebbero che cosa? Non l'entrata di Murdoch in Mediaset o l'acquisizione di Murdoch di Mediaset Premium, per esempio, ma, dice il Corriere, l'idea è quella di mettersi insieme, creare una new company partecipata con una quota di maggioranza da Murdoch e con Mediaset sotto il 50%. In questa new co verrebbero conferite le attività italiane della pay TV di Sky e di Mediaset. Questa sarebbe la soluzione più semplice per mettere a fattore comune le due piattaforme, condividendone la crescita. Questa è la linea che oggi il Corriere descrive, e cioè quella di Murdoch e Berlusconi, le due famiglie pronte a mettersi insieme in una nuova compagnia televisiva. Staremo a vedere. Parliamo delle pensioni. Allora, ieri Renzi è andato a porta, ha parlato un po' di tutto, ha parlato anche delle pensioni, ha detto che sono insopportabili i vitalizi, per cui Libero e anche il Giornale stanno facendo una campagna, finalmente, altro che demagogia e populismo. Sono vergognosi, e bisogna dirlo chiaramente, il fatto che, come scrive oggi Libero, ci sono parlamentari, e ci sono tutti i nomi e cognomi, che hanno versato, sono stati in Parlamento un giorno, hanno versato 60.000 euro di contributi e hanno ricevuto magari fino a questo momento 500.000 euro. Cioè, ma voi trovate un sistema pensionistico di qualsiasi tipo dove a fronte di 60.000 euro di contributi versati avete già preso 500.000 euro? Oggi Libero scrive, per esempio, che uno di questi beneficiati è Eugenio Scalfari, l'abbiamo detto tante volte, non è una caccia alle streghe, ma è uno dei più clamorosi, perché visto anche che un giornalista spesso critico delle cose di governo, di quello che succede. Allora oggi Libero scrive che Eugenio Scalfari, se si applicasse a lui la legge Fornero, prenderebbe una pensione di 230 euro, e invece Eugenio Scalfari, tra quello che ha versato e quello che ha già incassato, ha uno spread a suo favore di 800.000 euro in quanto ex parlamentare. Allora, io devo dire che tra l'altro oggi sulle pensioni c'è un dossier corposo, molto corposo, sul Sole 24 Ore, a partire da questa notizia che Davide Colombo descrive a pagina 3, che mi ha fatto fare una battuta una battuta, era una battuta, l'ho messa su Twitter, adesso la dirò anche a Mauro Meazza che saluto. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa hai detto? Ah, no, ho detto una cosa molto spiacevole, mi stanno stroncando su Twitter. Ho detto, visto che Davide Colombo spiega che la spesa, la maggiore spesa per il fatto che ci sono molti pensionati che sono andati col retributivo invece che col contributivo, come andremo tutti noi, è di 46 miliardi l'anno. Cioè, se si ricalcolassero col contributivo risparmieremmo 46 miliardi. Allora ho fatto questa battuta: anziani, vi vogliamo un mare di bene, ma schiattate presto. No, ma nel senso. Sì, una cosa per dirla nel gergo di Twitter, caro Alessandro, la tocco piano. Ma sì, ma era una battuta, una mamma mia, mi stanno distruggendo. Sai che si riparte il cantiere delle pensioni, del resto quando mai è stato chiuso, nel senso che sono sotto riforma continua, riforma permanente. E allora a pagina 3, come dicevi tu giustamente, è questo problema. Noi abbiamo, come dire, garantito delle prestazioni che in altri tempi forse ci si poteva permettere, e adesso allora mi vuoi provocare? Allora stai girando il coltello. È un problema. Che dobbiamo fare? Peraltro, ti voglio dare una brutta notizia da questo punto di vista, perché la vita media comunque si allunga, l'aspettativa di vita. Allora media, vuoi provocare? Diciamo che sto inzigando, stuzzicando. Però sai che c'è tutto invece la riapertura, le possibilità di invece uscite anticipate di nuovo possibili, naturalmente riducendosi l'assegno. Però a quel punto lì, 230 euro di cui parlavi prima, per qualcuno ipotetici, non so, allora poi si riducono a 180 euro, 160 euro, insomma diventerebbe... Non è una questione tanto semplice, specialmente... Strano, perché ieri Renzi ha detto ieri, abbiamo risolto il problema. Ne staranno parlando, cioè, vabbè, niente, non voglio fare delle battute gufesche, no, per carità, se no già oggi sei messo in croce tu, ci mancherebbe che poi. Invece ti voglio dire che abbiamo questa anticipazione sulla fibra ottica, il decreto comunicazioni, così detto, qualche pagina più oltre gli approfondimenti sulle pensioni, ti raccontiamo che il governo sta per intervenire per consentire la posa delle reti in fibra ottica su qualsiasi rete. Questa sarebbe un'innovazione parecchio importante, ma ti spiega perché, Carmine Fotina, appunto nelle pagine successive alle pensioni, che hanno giustamente la precedenza oggi. E poi c'è la legge sugli ecoreati, le nuove disposizioni sugli ecoreati che sono diventate legge, che sono appena nelle pagine più oltre ancora di oggi del Sole 24 Ore. Quindi tutte vicende importanti. Posso dare una notizia da dita incrociate? Sì, certo. Insomma, da scongiuri, da facciamo gli scongiuri. Le immatricolazioni sono risalite addirittura del 24% in Italia, del 9% in Europa, speriamo bene. Leggi imprese e territori, che ti spieghiamo tutto. E infine vorrei evocare un aspetto invece più biblico, visto che tu oggi l'hai messa anche su queste vicende escatologiche. Parliamo di Gerico. Quello delle mura, naturalmente. Immagino. Ecco, ma parliamo del Gerico 2015, che è il software di calcolo, viene utilizzato per gli studi di settore. Come sai, perché lo sai, te l'abbiamo scritto sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, è stata diffusa la versione per ora beta, cosiddetta sperimentale. Ci sono delle simulazioni oggi su norme e tributi. Buona notizia, sembra più sensibile ai cali di fatturato. Se mi hai seguito fin qui, bene. Se invece qualcosa ti è sfuggito, ti rinvio naturalmente alle pagine di norme e tributi. Sai cosa ha detto ieri Gratteri a Radio 24? Ha detto: in Parlamento c'è troppo traffico. Oh, Milan, sì, è il numero uno, ciao. Ma anche 2 o 3 va benissimo. Allora, cari ascoltatori, sul tema pensioni parla il presidente dell'INPS Tito Boeri, lo fa in un'intervista sulla Stampa, intervistato da Francesco Manacorda. Il titolo è: bene la scelta del governo sui rimborsi, così ci saranno i soldi per i più poveri. Boeri dice: intanto precisiamo, queste decisioni non riguardavano l'INPS, c'era una scelta molto difficile da fare, i vincoli dell'indebitamento e l'onere da 18 miliardi sarebbe gravato quasi interamente sui contribuenti. Il governo, gliene va dato atto, ha agito rapidamente e ha deciso, cosa rara in Italia. Ora vedremo cosa farà per la povertà, ma se avesse rimborsato tutto a tutti non avrebbe di sicuro potuto far nulla. Certo, poi nel mondo delle pensioni ci sono situazioni troppo diverse tra di loro. Ecco qua che Boeri entra un po' nella questione che mi ha fatto fare questa battutaccia. Ed è questa: troppe situazioni diverse tra loro, comprese quelle di chi riceve molto di più di quanto ha versato come contributi. Insomma, chiede La Stampa, il conflitto generazionale non è solo tra i vecchi pensionati e i giovani, che avranno pensioni assai inferiori, ma tra pensionati e chi alla pensione non riesce ad arrivare. Beh, risponde Boeri, prima della crisi 2007 c'erano 11 milioni di persone in Italia sotto la soglia di povertà, oggi sono 15 milioni. E daremo a tutti, daremo a questa categoria, e stiamo lavorando per fare entro il prossimo mese la proposta, un reddito minimo garantito. Sarà una proposta che si regge sulle sue gambe, è fattibile perché in quella fascia di età, e cioè l'età tra i 55 e i 65 anni, non servono politiche attive, non si deve stare dietro alle persone perché cerchino lavoro, visto che è molto difficile che lo trovino. Sarà una proposta autofinanziata modificando la struttura dei trasferimenti. Il problema dell'Italia è che ha un sacco di trasferimenti che però arrivano pochissimo a chi ne ha davvero bisogno. Al 10% più povero della popolazione, ad esempio, vanno solo il 3% dei trasferimenti totali. E poi Boeri promette anche trasparenza, vogliamo arrivare a rendere pubblici tutti i dati dei politici. Beh, si farà moltissimi amici, Presidente. Me ne sono già fatti molti. Conclude così l'intervista sulla stampa Tito Boeri, che annuncia appunto una proposta sul reddito minimo garantito e poi sulla riforma della legge Fornero parla anche di questo. Comunque trovate l'intervista, così come trovate i nomi di coloro che su Libero e sul giornale c'è questa campagna, si sono pappati, che ne so, 800.000 euro, 1 milione di euro e magari hanno versato 60.000 euro come contributi da ex parlamentari. Va tutto bene così, va tutto bene così. Dico ironicamente. Oh, c'è anche il tema dei migranti che continua, un po' sotto traccia, ma c'è. Il presidente francese Hollande ha detto che no alle quote. È il nuovo scontro sui migranti. Non esiste che ci siano quote di immigrati. Abbiamo regole sul controllo delle frontiere e gestione dei flussi migratori. Così la Francia si sfila da questo accordo e allora l'alto commissario per l'Unione Europea della politica estera, Federica Mogherini, oggi fa una lunga intervista ad Avvenire. A pagina 9, intervistata da Arturo Celletti, dice: la proposta è concreta. Sulla condivisione della responsabilità è un'assoluta novità, un passaggio che non c'era mai stato. Ora dobbiamo lavorare sul testo, siamo pronti a limarlo, a rivederlo, anche a immaginare una certa flessibilità, ma l'obiettivo non può essere in discussione, anche perché il via libera non ha bisogno dell'unanimità. Per andare avanti basterà la maggioranza dei 28 paesi. Quindi risponde così al freno di Francia e Spagna. È passato il concetto, dice Mogherini, che dobbiamo farci carico di questa responsabilità in modo europeo. Questo è già un risultato positivo. Dunque, la Mogherini, in questa lunga intervista ad Avvenire, dice: difendo la questione delle quote. E vedremo come va a finire. Vediamo se ci sono, se c'è spazio anche per altre notizie. Sì, c'è questa notizia che mi ha incuriosito. E riguarda il biotestamento. La regione Friuli Venezia Giulia ha promosso una legge sul biotestamento, registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. E contro questa legge il governo farà ricorso dicendo che questa legge è incostituzionale. Il problema politico è che a presiedere la regione Friuli Venezia Giulia c'è Deborah Serracchiani, che è vicepresidente del Partito Democratico. Dunque, duello tra Serracchiani del PD e il governo del colore PD. Il biotestamento, difendo la mia legge. Deborah Serracchiani dice: non cambieremo e anzi dovremo parlare anche di eutanasia e altre e altre questioni etiche. E dunque lo scontro trovate sul Corriere della Sera, pagina 18, questo scontro, se volete, politico tra la Serracchiani e il governo sul biotestamento. Pagina 18 del Corriere della Sera. Siamo in conclusione? Sì. Ah, intanto la notizia veramente mi ha distrutto. Sul Messaggero, vi ricordate la vicenda di Alfredino Rampi, no? Di Vermicino? Ieri, nei giorni scorsi, è morto anche il fratello, 36 anni, stroncato da un infarto, Riccardo Rampi. Davvero il Messaggero titola La maledizione della famiglia. Una disperazione dietro l'altra. Vabbè, siamo alla carta costa, eccoci qua, in diretta su Periscope. Mezza pagina di Marcello Sorgi sulla Stampa, dedicata al libro di Bruno Vespa e Candida Morvillo, che raccontano i salotti romani di Maria Angiolillo. Ma ancora, ancora, ma dai. Ma chi se ne frega!